La storia e la memoria di Dino Pesole. La prima e la seconda guerra mondiale, due suicidi politici da cui l'Europa non si è ripresa del tutto. Non si può partire che da questa constatazione nel ripercorrere, a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, alcune delle tappe fondamentali che hanno caratterizzato nel corso dei decenni il faticoso percorso di integrazione europea. Lo facciamo questa sera in compagnia di un ospite che l'Europa, i suoi meccanismi, le sue opportunità, ma anche i suoi limiti, li conosce bene. È in studio con noi Thierry Vissol, funzionario della Commissione europea dal 1980, attualmente consigliere speciale per i media e la comunicazione presso la rappresentanza in Italia della Commissione, economista e storico, ha insegnato in varie università in Belgio, Francia e Stati Uniti. Allora, buonasera e benvenuto, Thierry. Grazie, buonasera Dino. Allora, Thierry Vissol ha scritto un libro per l'Europa. Prendiamo spunto proprio dalle riflessioni contenute da questo agile libro appena scritto per Donzelli, dal titolo decisamente provocatorio «È tutta colpa dell'Europa». Euroscettici in 56 vignette satiriche con prefazione di Lucio Battistotti. Ascoltiamo insieme questo passaggio del libro. Il trattato di pace firmato a Versailles nel 1919 sotto la pressione del presidente americano Wilson stabilì nuove frontiere europee, frontiere che saranno violate durante il secondo conflitto mondiale e la guerra fredda. Con poche differenze, queste frontiere sono quelle ricreate dopo la caduta del muro di Berlino del 1989. La lentezza della costruzione politica ed economica dell'Unione Europea, l'attuale recrudescenza dei nazionalismi, incoraggiati da una demagogia cieca di fronte alle sfide da cogliere e ignara delle lezioni del passato, e contrastati da classi politiche arcaiche in paesi invecchiati e in via di disindustrializzazione, ci stanno portando a una situazione generale molto simile a quella precedente della Prima Guerra Mondiale. Potrebbero condurre l'Europa verso un terzo suicidio collettivo, forse meno sanguinoso, ma comunque drammatico per i popoli e la cultura europea. Dunque, Thierry, l'Europa rischia sul serio un terzo suicidio collettivo dopo i disastri del Novecento? Spero bene di no, ma diciamo che quello che si vede per il momento in termini di euroscetticismo, critiche all'Europa, volontà di uscire dell'euro, volontà di fare a meno dell'Europa, fa paura, dai brividi. E dunque è chiaro che anche se gli euroscettici non vinceranno queste elezioni europee, è chiaro che c'è nell'aria, diciamo, un fattore di distruzione piuttosto che un fattore di costruzione, di consolidamento o di progresso verso qualcosa di meglio. Allora, partiamo ora e parliamo soprattutto della nuova Europa, quella che nasce dalle ceneri del secondo conflitto mondiale. Convenzionalmente è il 9 maggio del 1950, con la famosa dichiarazione del ministro degli esteri francese Robert Schuman, che si data l'inizio del percorso di integrazione europea. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto. L'Unione delle Nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania. Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune alta autorità, nel quadro di un'organizzazione alla quale possono aderire gli altri paesi europei. La fusione della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione Europea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i paesi che vorranno aderirvi, è intesa a fornire a tutti i paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica. Allora Thierry, i padri fondatori, pensiamo alle lungimiranti idee contenute nel manifesto di Ventotene del 1944, e stiamo parlando di personaggi del calibro di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, avevano ben chiaro quale dovesse essere il percorso verso i futuri Stati Uniti d'Europa e cosa si è inceppato nel motore della nostra casa comune. Beh, prima di tutto si potrebbe dire che l'idea di Europa tale quale la vogliamo è ben precedente a quella, diciamo, degli anni 50. Si può dire già che la prima guerra tra la Germania e la Francia di importanza, quella del 1870, è stata fatta appunto per recuperare il carbone e l'acciaio dell'Alsace-Lorraine. Stessa cosa nella Prima Guerra Mondiale, quando i tedeschi nel 1916 hanno proposto una pace a loro condizione, c'era dentro le condizioni di conservare l'Alsace e la Lorraine appunto per il carbone. E poi ci sono stati tantissimi pensatori che hanno voluto, durante la prima guerra e dopo la prima guerra mondiale, creare un'Unione Europea del tipo di quello che dopodiché è stata presentata da Spinelli e altri. Il problema ovviamente è stato, secondo me, il primo inceppo è stato quello della Comunità Europea della Difesa nel 1954, perché ovviamente si può solo pensare di creare, diciamo, uno Stato federale, confederale, qualsiasi, se ci sono alcuni elementi che permettono di fare una politica comune nei domani che sono della piena responsabilità della sovranità nazionale. La difesa è una di questo, la moneta è un altro. E dunque avere mancato questa possibilità a causa dei francesi, che non hanno voluto a quest'epoca fare delle forze armate con i tedeschi, è caduto questo. Cadendo questo, non lasciava più che la possibilità di andare sulla via dell'economia, quello che è stato fatto nel 58. E già a quest'epoca, ben presto, nel 63, è cominciato ad avere l'idea di fare una moneta comune, di coordinare le politiche economiche. Quindi un percorso obbligato, sostanzialmente. Chiaramente sì, perché non c'era altra via, visto che la via politica, diciamo, della grande politica, quella della difesa, della politica estera, eccetera, eccetera, era stata bloccata. Dunque si doveva provare qualcos'altro, sperando che, così facendo, si arriverebbe a un'unione politica. Questo è stato tra l'altro il percorso della Germania. Se pensiamo come si è fatto l'unificazione della Germania, ha cominciato con un'unione doganale. Certo. Poi dopodiché c'è stata la moneta anche che è arrivata e l'unificazione politica, ma che si è fatta quasi 40 anni dopo l'inizio dell'unione doganale. Certo. Per l'Italia è stato un caso un po' diverso, ma diciamo l'idea che l'economia poteva condurre mettendo insieme risorse comune, facendo un mercato dove era possibile di spostarsi da un paese all'altro in un modo facile, poteva condurre a creare questa, diciamo, voglia di andare più avanti a livello politico. Allora, una curiosità sul libro, perché tu hai deciso di parlare di Europa attraverso delle vignette. Sì. Come è nata questa idea? Prima di tutto vorrei insistere sul numero delle vignette. Sì, 56. Che 56. Perché? Perché dal 1958 al 2014 fanno 56 anni. Ah, ecco, non è casuale. Non è casuale per niente. E dunque no, l'idea è che molto spesso si parla dell'Europa in una maniera così triste, così noiosa, che la gente si rompe dopo pochissimo. E poi è talmente complesso che anche là è abbastanza difficile comunicare su questa materia, perché la complessità rende tutto molto confuso e dunque difficile. Dunque l'idea era di prendere un po' di recul, come si dice in francese, cioè di vedere un po' più dall'alto, prendendo anche, accettando, diciamo, la critica tramite la vignetta umoristica, perché secondo me è estremamente importante la vignetta. Per esempio, non penso che sarebbe possibile di immaginare la prima pagina del Corriere della Sera senza Gianetti, o Le Monde senza Plantu. E la vignetta è un modo per di più di comunicazione universale, cioè il disegno basta per passare un messaggio. Poche volte c'è un testo, raramente c'è un testo, generalmente è visuale. E dunque si può leggere in qualsiasi lingua. Dunque probabilmente la vignetta è la sola lingua franca europea che tutti possono capire. Questo percorso che tu hai tracciato nel libro emerge una visione, come dire, euro-ottimistica o euro-scettica? Ma diciamo, dipende quale versante vuoi, perché l'analisi di quello che si dice per il momento, di quello che si sente, è terribilmente pessimistica. Perché? Perché si sentono delle cose che sono un'assurdità totale, delle controverità. Non è che sono delle falsa verità, sono delle controverità. Quello che si dice, per esempio, sul fiscal compact e il suo costo è completamente assurdo. Vuol dire che nessuno l'ha letto, non ha capito neanche che cosa voleva dire. Sul meccanismo europeo di stabilizzazione, che costerebbe 125 miliardi di euro all'Italia, allorché è un prestito che rende interessi, dunque che è un guadagno, un investimento, cioè un sacco di cose che sono talmente falso che effettivamente conduce a dire: ma mamma mia, siamo persi, perché se siamo a questo livello allora è inutile di continuare, perché vuol dire che nessuno ha capito di che stavamo parlando e che parlano di tutt'altro. Invece sono ottimista, perché solo l'Europa ci può permettere di rilevare le sfide del futuro e anche del presente. Cioè, non è per caso che la Cina è diventata la prima potenza mondiale. E dove siamo noi? Molto lontani. Se non ci unifichiamo, allora siamo persi. Bene, grazie allora a Thierry Vissol, autore di questo interessante libro È tutta colpa dell'Europa, Euroscettici ed Eurocritici in 56 vignette satiriche, pubblicato da Donzelli. Buonasera e grazie ancora. Grazie a voi.